Allora, più che operare una sintesi, io mi limiterò in questa sede a cercare di illustrare con una serie di esempi molto particolari la nascita, l'evoluzione, le possibili variabili di evoluzione, sia in rapporto alla giustificazione, sia in rapporto all'esito finale di queste che chiamiamo signorie territoriali. Sottolineo la necessità di un esempio e soprattutto di un esempio che sia riferibile a un territorio ristretto e omogeneo. Infatti, nell'esempio che fornirò, non mi sposterò da un territorio che ha 10 chilometri di lato, un territorio più o meno quadrato di 10 chilometri di lato, che è però fortemente documentato. I documenti relativi a questo territorio sono un migliaio per almeno 2 secoli e mezzo. Quindi possiamo seguire l'evoluzione della signoria territoriale nelle sue possibili varianti in maniera molto capillare, molto dettagliata. Soprattutto possiamo individuare la coscienza che i protagonisti hanno avuto. In tutti gli altri esempi che ho sentito e che ho letto di signoria territoriale, questo non è stato fatto, anche perché la documentazione era pescata sporadicamente e derivava da processi. Allora, io inviterei a fare degli esempi di questo tipo nella situazione italiana per chiarire che cosa intendiamo innanzitutto per signoria territoriale, che io chiamerei di bando, che in grosso modo coincide con quanto ha detto Livia Fasola nel suo intervento con la parola signoria rurale. Ma io la chiamerei di bando per molte ragioni e indicherei la territorialità e il bando, proprio perché indicano i due elementi fondamentali che si esercita su un territorio e sugli uomini, perché la finalità è poi riferirsi agli uomini che sono presenti su quel territorio. Allora, esiste un esempio che si possa seguire per 2 secoli e mezzo? E la risposta è il tentativo che io farò nella prima parte della mia relazione. Nella seconda parte cercherò di illustrare delle possibili varianti a brevissime distanze dall'esempio di signoria. Varianti che sono in rapporto all'origine, in rapporto all'evoluzione, in rapporto al riconoscimento giuridico e in rapporto all'esito finale. Ecco, in questi rapporti cercherò di analizzare se appunto in rapporto alla condizione dei sottoposti vari la modalità di esercitare i poteri signorili, cioè se i sottoposti sono solo rustici interviene una modalità di esercizio di giurisdizione, se i sottoposti invece sono rustici e milites, la situazione varia profondamente nell'esercizio della giurisdizione. Non solo, cercherò di vedere anche se i sottoposti partecipano e in che modo partecipano, se favorendo, se in qualche modo invece impedendo o rallentando la formazione della signoria territoriale, cioè se sono coscienti di ciò che sta avvenendo, se cercano di reagire o se partecipano alla formazione. Ecco, la peculiarità di questo esempio è che tutto avviene in un ambiente molto ristretto, che è appunto l'ambiente dei 10 chilometri di là. Allora, vediamo l'esempio di una formazione attraverso 2 secoli e mezzo di una signoria territoriale. È ovvio di vanno. È ovvio che si parta da una signoria di tipo fondiario curtense per arrivare alla signoria di vanno. Inizierò partendo dalla fine, cioè dall'ultimo processo di riconoscimento, perché nell'ultimo processo di riconoscimento è presente un elemento che ci spiegherà poi molte cose. Nel 1202 il causidico, cioè l'avvocato difensore della canonica di Novara, così difese la signoria territoriale dell'ente ecclesiastico su un castello. Si può provare, cito, che il capitolo abbia il possesso dell'honor e del districtum su tutto il territorio di Lumellonio, sia con un documento pubblico, sia con dei testimoni. La prova documentaria è questa. Il Dominus Pietro, che un tempo fu vescovo di Novara, integrò l'honor e il districtum con il telonè e lo donò alla canonica di Santa Maria, come si dice nel documento 17 marzo 1013, cioè cito un documento di 200 anni prima. Il vescovo Pietro lo fece perché era conte dell'intera diocesi di Novara. Della curcarica rimangono ancora oggi delle vestigia. In pugnis, cioè nel duello, diritto di concedere il duello giudiziario. In colonnes, nell'attribuzione dei tutori, dei minori e dei curatori, nelle vendite dei beni dei minori, nei processi di emancipazione e in tante altre cose che non è necessario enumerare, che i successori hanno sempre fino ad oggi mantenuto. I testimoni hanno mostrato chiaramente che unico è il Gastaldo dell'uomo, unico, e che tutti gli anni il preposito istituisce i consoli. Inoltre i canonici, inoltre i canonici sottoponevano al banno ed esercitavano il potere giurisdizionale su tutti gli uomini, anche quelli che lavoravano e risiedevano sui beni e nei sedili degli avversari nel processo, in quanto questi massari erano stati costretti a giurare il salvamentum loci. In altre parole, concluse l'avvocato, tutti furono sottoposti al banno e sotto banno giurarono di stare ai comandi dei canonici e alcuni pagarono anche la multa. Ora, cosa significa, si chiese l'avvocato, possedere honor e districtum, che lui poi identifica immediatamente con la parola iurisdizio. Nonne ec est possessio districti, homines bannire, et banna exigere, et mandato suo stare, et sacramento cogere. Ecco, l'impegno del causidico si concluse con un significativo riferimento al digesto. Infatti, l'avversario dei canonici aveva sollevato il dubbio che le testimonianze a loro favore fossero false e si dimostrava pronto a provare la sua asserzione con il duello giudiziario. L'avvocato ecclesiastico sottolineò l'inutilità di un simile provvedimento, citando il digesto, che avrebbe potuto aver luogo solo nel caso che la vittoria della parte avversa fosse legata esclusivamente ai testimoni. Cioè, si poteva fare, secondo l'avvocato, solo ubi testes tantum victoriam parat. Ma nei processi in cui vi fossero prove documentarie, il giudice poteva tranquillamente pronunciare la sentenza senza l'ausilio dei testi, come nel caso in questione, perché, sottolineò, qui esistono documenta pubblica, cioè documenti pubblici. Siamo 1202, in totale. Le affermazioni dei testimoni quindi divenivano secondarie al fine della formazione della sentenza. I consoli di giustizia di Novara, che è la causa di discute davanti alla magistratura comunale, emettono la sentenza chiedendo il parere, come sempre, ai sapienti sbirri di Milano e di Pavia, e dichiarano, prima di pronunciare la sentenza, di non tenere conto dei testi forniti dal preposito. Quindi solo sulla base dei documenti scritti i giudici dichiarano che la canonica possiede, attenzione, la giurisdizione su tutto il luogo in modo superiore a quello di ciascun altro, e sarà una diminuzione di una precedente sentenza che era molto molto più precisa. La prova documentaria fondamentale che i giudici tengono in considerazione era, per sostenere che la totalità dell'onore del districtum su Lumellonio apparteneva alla Chiesa, era, e lo dicono nella sentenza, basata sulla esibizione dell'antica carta di donazione instrumentum publicum del vescovo Pietro, con la quale, attenzione perché è privata, questa è una donazione privata del vescovo, di diritti signorili però, con la quale il vescovo cedeva ai canonici honorem et districtum in integrum loci nomenoni et teloneum, fatto avvenuto 200 anni prima, 1013. Il vescovo aveva potuto fare ciò perché, dice l'avvocato, aveva poteri comitali, però i poteri comitali li prova con vestigia, cioè con dei riferimenti a situazioni effettivamente esercitate dal vescovo. Perché? Perché non poteva esibirli con un documento, per la semplice ragione che il vescovo aveva ottenuto il comitato di Bombbia da Corrado II nel 1025 e quindi nel 1013 non lo possedeva, e quindi elenca le vestigia. Tuttavia lui sapeva che la sua affermazione era falsa. Perché? Perché all'interno dello stesso archivio, insieme al documento di donazione di onore districtum, vi era un altro documento legato insieme, perché era dello stesso giorno, con cui il vescovo aveva comperato onore e districtum da un conte. Quindi, in quel momento, lui non si è sentito di esibire il documento di acquisto di onore e districtum, ma ha esibito solo ed esclusivamente il documento di donazione, e poi ha giustificato con i vestigia del potere comitale del vescovo, che a quell'epoca non lo era ancora. Il conte, e questo è estremamente interessante, aveva venduto solo i diritti signorili, senza alcuna terra, solo toloneum e districtum illum iuri nostri in loco et fundo nemenoni, senza cedergli terra, nel modo più assoluto. Inoltre, questi diritti il conte li aveva scorporati, e lo dice il documento, dai redditi di una corte che era di sua proprietà. Quindi li ha scorporati dai redditi di un'altra corte molto lontana, lo dice, che derivavano a parte nostra e de curte nostra quid incitur cavalli regi esire solet. Sono di redditi derivanti da diritti che erano stati goduti da una corte che aveva un'antica ascendenza regia, perché cavalli regi, quindi è una corte di antica ascendenza regia. In altre parole, il conte che ha venduto cedeva solo honor, districtum, telone, i cui proventi economici furono separati dalle rendite di una cultis molto lontana, cavalli regi. Ma dal fondo documentario della canonica a questo punto è possibile conoscere una storia complessa, utile a seguire il processo formativo e la struttura della signoria rurale in questione. Infatti, una carta a memoria regimentum nata. È una carta scritta agli inizi del XI secolo. Il vescovo d'Egiberto donò ai canonici in Lumellonium la corte insieme al castello, con le case e i massarici e tutte le strutture pertinenti al centro fondiario, compresi alcuni possedimenti nei luoghi e nei fondi di Giozzana, Pagliate e Trecate. Con la corte diede pure i servi e le serve e gli aldi e le loro case che appartenevano alla stessa unità economica. Questo siamo il vescovo d'Egiberto e agli inizi del X secolo, 902-940. Il vescovo d'Egiberto era un personaggio pavese, molto legato alla corte di Berengario I, sia nel bene che nel male, e agisce, e la sua donazione è nei primi 30 anni del X secolo. Ovviamente si tratta semplicemente di una curtis, in quanto unità economico-fondiaria, senza diritti signorili, se non quelli che può esercitare sui serfi, ma in quanto sono legati al lavoro della curtis, una curtis probabilmente di origine carolingia, che però era formata da tre nuclei, non da un nucleo unico. Quindi da tre villaggi, due sono confinanti con il centro della curtis, un altro è molto lontano. Quindi è una curtis aperta e a questa curtis sono annessi appunto tutto il personale servile. C'è un secondo nucleo che è dato dal castello, di cui non sappiamo nulla, e c'è, almeno per quest'epoca, e c'è un terzo nucleo che è dato dal vicus, perché villa e vicus in quei documenti sono perfettamente coincidenti, e su questo appunto il Settia, che me lo ha insegnato, è perfettamente d'accordo. Allora, il donatore d'Agiberto è un personaggio legato a Berengario I. Non sappiamo come lui si sia impadronito della curtis, nella quale controllava i beni e il personale servizio. Tuttavia, sul luogo non vi erano solo servi. Siamo sicuri, da carte del IX secolo, 898, che sul luogo vi erano boni homines, abitanti nel vicus. Quindi, uomini giuridicamente liberi e proprietari di beni immobili. A partire dalla seconda metà del X secolo, gli ecclesiastici incentrano la loro attenzione sempre più sul castello, perché il vescovo non aveva donato tutto, aveva donato solo quello che era riuscito ad avere, e iniziano a comprare beni nel castello e sul territorio, e infatti usano un sistema di quelli descritti dal professor Violante dei prestiti dissimulati, cioè il sistema dell'acquisto con retrocessione immediata del bene acquistato al venditore e il patto in usufrutto, e il patto che alla morte del venditore il bene tornerà a un ente ecclesiastico, guarda caso la canonica, e l'intermediario non fa parte della canonica ed è un procacciatore d'affari, in genere prete. Per l'Italia settentrionale, chi studia le carte di quest'epoca dell'Italia settentrionale, questa è una normalissima procedura per acquisizione di patrimonio. E a questo punto la canonica diventa proprietaria di quote molto più ampie sul vicus, nel castello, e quindi anche in rapporto a questa curtis anticamente donata. Fin qui siamo all'interno di una, potremmo chiamarla con un termine tedesco, Grunderschaft, cioè questi sono signori di una corte, ma qui la parola signore indica solo padrone di una corte e quindi può far lavorare i propri servi. La differenza scatta improvvisamente in quel anno fatidico 1030 in cui il vescovo si fa vendere dal conte il districtum e il teloneum sul territorio, districtum e teloneum, che è separato dai possessi, e il conte glielo vende separato dai possessi. La situazione situazione durante il corso dell'undicesimo secolo procede senza problemi. Cioè, sembrerebbe che la canonica abbia esercitato per tutto il corso dell'undicesimo secolo, non ci sono contestazioni, il suo esercizio di signoria, però questa volta nell'altro termine, non più di Lundeschaft, ma anche di signoria territoriale, sul luogo. Tuttavia, e questo è estremamente interessante, è iniziato tra la fine del X secolo e i primissimi anni dell'undicesimo secolo, cioè proprio nel momento in cui viene acquisito, comperato il diritto di signoria, un processo di dissoluzione del territorio. Cioè, mentre lo stanno organizzando, si innesta un processo di dissoluzione, che è dato dal fatto che un vescovo, Aubaldo, che è vescovo, era l'abate di Sant'Ambrogio in precedenza, che è vescovo nella seconda metà del X secolo, e il suo successore operano una politica di concessione in beneficio di larghe fette del territorio senza onore di districtum, ma attenzione, solo parti patrimoniali abilites della Chiesa. Cioè il vescovo si crea una sua clientela vassalatica mantenendola con donazioni, con concessioni in beneficio, scusate, di parti di territorio. Per cui, nello stesso momento in cui i canonici hanno tentato di accentrare, si è immediatamente creato un processo opposto di dissoluzione. Questo processo di dissoluzione lo si vede subito nel 1017, quando Umile si entra in lite per il possesso di un bosco, bosco comune, quindi iura regalia, nei rapporti con la canonica, ma dopo tutto funziona perfettamente. La novità assoluta partirà dal XII secolo. Nel XII secolo sembra che nella mente dei canonici emerga un progetto, che è quello di creare una signoria territoriale di banno su tutti gli abitanti, nessuno escluso, anche quelli che lavorano le corti, altre corti o altre proprietà presenti sullo stesso territorio, e che, guarda caso, sono cittadini novaresi, che vuol dire che il processo di crescita civile e politica della città con le comunità dei cittadini che avevano proprietà sul luogo, non sappiamo in che modo se le siano procurate, probabilmente operandole, incomincia a creare la necessità di una sistemazione giuridica molto precisa. E la prima spia che i canonici vogliono andare in questa direzione è in un documento papale del 1132, i canonici si muovono potenti, stava passando da Novara in quel momento, è il centro secondo che sta rientrando dalla Francia dopo lo scisma, e si fanno confermare il castello di Lumellonio con l'intera giurisdizione su tutto il villaggio, cum omni districtum totius ville, e con tutti i mansi, 20 mansi, quindi era una corte di 20 mansi. La medesima formula viene ripetuta da Eugenio III. Ma l'operazione viene realizzata attraverso anche acquisti. Cioè, i canonici a questo punto decidono che la presenza dei milites, che si erano legati al luogo attraverso la concessione in beneficio degli inizi dell'undicesimo secolo, decidono che questi milites devono essere eliminati dal territorio, perché probabilmente sono personaggi su cui è difficile esercitare la giurisdizione. E allora, con una operazione cosciente, si fanno prestare i soldi, pagano i milites, si fanno fare una refutatio al vescovo del loro beneficio, e lo dona, e il vescovo dona il possesso dei milites alla canonica. Quindi, dopo il 1132, siamo negli anni 40 del XII secolo i canonici eliminano i Vites, li pagano e li eliminano. A questo punto, però, non sono riusciti a liquidare i Cives di Novara che avevano proprietà sul luogo. E nel 1148 avviene lo scontro giuridico tra il mondo dei canonici e il mondo dei Cives della città. È una famiglia di Cives, si chiama De Novenonio, e quindi si è radicata profondamente sul luogo, sono cittadini, e la famiglia si oppone a che i canonici abbiano a giudicare i suoi uomini, cioè i suoi vassalli. Usando questo argomento, se noi venissimo ad abitare sul luogo, non saremmo sottoposti alla giurisdizione dei canonici, in quanto cittadini di Novara. Si va avanti al vescovo, che in questo momento è Luttifredo, che è un personaggio che esercita il missaticum imperiale, quindi è un uomo pubblico a questo punto, non è vescovo in quanto vescovo, ma è un uomo pubblico. E il vescovo decide così, ve la leggo in latino: per sententiam dixi, omnes illos homines, quicunque essent, qui habitarent in suprascritto loco Nomenonio, esse districti et honoris suprascripte ecclesiae, et per canonicos e iusdem ecclesiae, omnibus modis iure distringi debere, omni privilegio civitatis, vel dignitatis, vel persone penitus remoto. È una sentenza di una chiarezza ineccepibile. Di fronte a questa, penso che si possa parlare finalmente di signoria territoriale. Un esempio ce l'abbiamo. Un esempio c'è. Ed è un esempio che è legato al bando. Ecco perché insisto sul termine di signoria territoriale di bando, perché la discussione era sul bando nei confronti degli uomini. Che anno? Siamo 1148, prima del Barbarossa. Proprio fase appena prima del Barbarossa. Veniva giuridicamente sancita l'esistenza di un'unica signoria con poteri giurisdizionali a base territoriale, però nei decenni che verranno questa sentenza verrà lentamente smussata. Ci saranno due ulteriori processi, la sentenza verrà smussata. Perché verrà smussata? Perché altre famiglie cittadine presenti solleveranno l'eccezione che anche loro, in qualche modo, sui loro rustici, esercitano una forma di dominatus che loro definiscono onorifico. Onorifice, noi ci comportiamo con i nostri rustici, perché esigiamo da loro l'albergaria quando andiamo a visitare le terre, cioè il diritto di essere ricevuti, probabilmente quel contratto scritto gliel'avevano messo, i pasti, l'alloggio, non solo, ma anche i servizi con i carri per portare gli affitti in città, che loro richiedono dai loro dipendenti, e poi una serie di donativi che possono essere capponi, eccetera, eccetera. Vedete come il termine dominus a questo punto assuma due significati completamente diversi e qualcuno cerchi di garantirsi una forma di dominatus inferiore. E i canonici invece dimostrano che la loro forma di signoria è superiore, perché loro sono in grado di obbligare i rustici, tutti, anche gli altri, ad andare a riparare un vicino castello di loro proprietà, ad andare ad extorquere flumen, cioè a fare lavori di riparazione su un fiume e a sistemare le strade del territorio. La sentenza è abbastanza interessante, perché il giudice che pronuncia la sentenza è un personaggio che è il fratello di Brunasio Porca. Brunasio Porca è il sistematore del diritto consuetudinario di Milano. Questo è Matteo Porca, quindi il fratello, ed è uno che se ne intende, penso. Allora, arriva a una sistemazione di questo tipo, cioè lui riconosce l'alta signoria dei canonici. Domini in senso pregnante possono dirsi solo i canonici, in senso pieno, totale. Gli altri hanno una loro forma di signoria, che però è inferiore. Tanto è vero che nella sentenza si dice la signoria dei canonici è superiore alla signoria di tutti gli altri, che sarà la sentenza che abbiamo visto nell'ultimo processo del 1202 da cui sono partito. Riassumendo. 1180, attorno al 1180. Riassumendo, i canonici hanno ricevuto i poteri giurisdizionali per cessione di un vescovo che li ha acquistati nei primi anni del XV secolo da un caonte, il quale li ha patrimonializzati entro il reddito di una curtis di sua competenza, che è una curtis di antica ascendenza regia. I diritti di giurisdizione e di riscossione fiscale si erano quindi inseriti su di un ampio patrimonio terriero, contense, e sulla proprietà di case e di porzioni di castelli e di chiesa castellana, organizzato in una curtis. I canonici hanno eliminato la presenza prima dell'elemento contrario al loro lavoro, che erano i milites beneficiati dai vescovi per la clientela militare. Poi hanno potenziato le proprietà, impegnando anche beni della Chiesa per farsi prestare i soldi, e poi sono giunti ad acquisire la maggioranza delle quote del castello. Ma nel contempo, attraverso la nomina del castaldo e il controllo dell'elezione dei consoli, hanno organizzato una capillare signoria territoriale. Attenzione, e questo è quello che mi interessa dire, su tutti gli uomini, anche quelli delle altre proprietà di cittadini. E a questo punto la finalità che i canonici usano non è certo l'esercito, è la produzione. Infatti questa corte, signoria territoriale, è a 7-8 chilometri dalla città, quindi è il controllo della produzione agraria e il controllo dei bandi, e quindi degli introiti del bando, che non erano inferiori, abbiamo sentito nella relazione del professore francese che si occupava di problemi economici, che i proventi dei bandi erano più o meno pari, forse superiori, ai proventi dell'agricoltura. Quindi ai canonici interessa la parte economica e se la fanno garantire. Tutto il resto non interessa, quindi è un caso in cui il castello gioca poche chance. Ecco, però un caso di questo tipo è rarissimo, è l'unico che abbia trovato in maniera così precisa e con formulazioni giuridiche così precise. La situazione più diffusa è al contrario quella della pluralità di signori ugualmente dotati di poteri giurisdizionali sul territorio di un centro di villaggio o di castello. In questo caso il problema dell'esercizio signorile è estremamente complesso. Faccio l'esempio della località a 3 km di distanza, che è la località di Pagliano. Qui i canonici avevano delle proprietà, solo terriere, connesse con la vecchia curtis di Lumellone e riscuotevano solo la decima in senso di tassa sacramentale. Nel corso del medesimo secolo la Chiesa aveva comperato beni terrieri. Tuttavia la signoria era detenuta da una famiglia che era la famiglia dei Domini di Monticello, che non sappiamo per quali ragioni la detenessero. Tuttavia sappiamo che essi detenevano, oltre all'onore del districtus nuovo, che più tardi venderanno ai canonici, detenevano anche iura regalia, perché avevano diritti su arimandie, che vengono a un certo punto cedute a un altro ente ecclesiastico che sta entrando sul territorio, un monastero, in cambio di una palude. Allora è una famiglia che non sappiamo perché ha questi diritti e qual era la giustificazione di questi diritti, però li aveva. I canonici nel 1149 siamo a 3 km di distanza dal luogo di Lumellodio e a un anno di distanza dalla tremenda sentenza del Vescovo, 1149. I canonici si trovano improvvisamente convocati davanti a un tribunale formato da una famiglia cittadina che sul luogo detiene un quarto dei diritti giurisdizionali, perché sono entrati in lite con i rustici della famiglia per il possesso e per l'uso di un bosco comune, quindi di uno iura legale. E i canonici a questo punto si rifiutano di comparire davanti al tribunale dei domini cittadini che detengono solo un quarto della signoria sul luogo. Solo che il rifiuto non avviene in base a questa legislazione che va formandosi sul problema della signoria, ma avviene in base al diritto canonico. Cioè i canonici si rifiutano di comparire davanti a un tribunale di laici in quanto sono ecclesiastici. E a questo punto il processo si sposta davanti al vescovo, che usa il diritto canonico per evitare che i canonici siano convocati davanti al processo, davanti al tribunale del laico. E per evitare questa situazione si trovano costretti a cooperare, cioè a tentare di creare una signoria come quella del vicino villaggio, cooperando le quote, ovviamente non del quarto ma dei tre quarti rimasti. E infatti attorno al 1160-1169 comperano dai domini del Monticello con una moneta sonante i beni del castello, i beni del villaggio, oro e distretto sul luogo. Si è creata una situazione di tre quarti dei canonici e un quarto dei Monticelli. A quel punto i canonici non riusciranno mai a instaurare la signoria, quindi è un tentativo fallito perché non riusciranno mai a creare la signoria. Questa famiglia di cittadini è una famiglia consolare cittadina, i suoi uomini costantemente sono consoli della città, non riusciranno mai assolutamente a spezzarla, a eliminarla dal territorio. Per cui si creerà una situazione di eterno conflitto con le due signorie che si contrappongono e si bloccano. Terzo esempio, questa volta in rapporto alla da dove deriva la signoria, origine della signoria, sempre in quel piccolissimo luogo. Siamo a 7-8 km di distanza dai luoghi appena citati. Qui esiste una famiglia di antica ascendenza legata ai re d'Italia del X secolo. Anche questa abbastanza testimoniata, sono i da Casalvolone, di cui si è occupato anche Branco Busdrani. Da Casalvolone derivano da un vala del loco Casali, qui dicitur Valoni, che fu vassus et missus di Berengario II nella prima metà del X secolo. Egli risiedeva lì e i suoi discendenti, dopo aver servito negli eserciti di Ottone I, dopo aver aderito alla rivolta di Arduino di Ivrea, continuano ad abitare nel villaggio. Finalmente nel 1039 uno di essi, Guala, il nome si ripete all'infinito, si reca al seguito di Corrado II e nel 1039, 2 anni dopo lo Stituzio, nel 1039 ottiene dall'imperatore un importante privilegio che riconferma, si dice, un privilegio di Ottone I Deperdito. O è possibile in qualche modo riferirsi a questo privilegio di Ottone I? Qui Corrado II garantiva, come anche il Keller ha sottolineato, perché si è occupato anche il Keller di questo studio, garantiva che veniva estesa la tuizio su tutti i beni allodiali e beneficiali posseduti in toto italico regno. Si trattava di un complesso però eterogeneo di possessi. in cui vi erano castelli, villaggi, terre, mulini, boschi, servi, uomini dipendenti, poteri giudiziari e funzioni di polizia. Ma niente di chiaramente determinato, non si capisce con precisione che cosa sia tutto ciò che viene donato, sembrerebbe una proprietà privata, anche perché questi non sono conti. Però, senza essere conti, ricevono da Corrado II anche il privilegio di celebrare processi per pugnam, e quindi il diritto sul duello giudiziario, e anche processi per sacramentum, come era lecito fare al conte palatino, dice l'imperatore, nonché la facoltà di attribuire tutore agli orfani e alle vedove, ricercare l'oro nelle sabbie, imporre tasse sulla navigazione e sugli approdi fluviali, riscuotere il telone, il sagone, il foro. Non solo, ma gli attribuisce l'immunità, proibendo ai funzionari di entrare nei suoi castelli e villaggi, la solita cosa dell'immunità negativa, per chiedere imposizioni fiscali. Non solo, ma ottiene il diritto di essere giudicato solo dall'imperatore. Ecco, questa famiglia, che è una famiglia quindi di domini di alto bordo, con poteri pressoché comitali, senza essere comitale, entra nel XII secolo nel rapporto vassallatico con i vescovi di Vercelli, cioè diventano capitani dei vescovi di Vercelli. E nel 1152, con Federico I, essi ricevono un nuovo documento che riconferma quello precedente, ma lo riconferma in maniera molto diversa. Infatti, innanzitutto, nel frattempo la famiglia aveva subito grossi problemi e erano stati venduti e terre beneficiali. Barbarossa concede di poterle riscattare e quindi di rientrare in possesso degli antichi benefici, quindi derivanti dal regno, perché erano benefici che derivavano dal regno. Poi, l'elenco delle località che prima erano messe alla rinfusa con i diritti messi alla rinfusa e mescolati con i diritti terrieri a questo punto appaiono in questo modo: districtum casalis valoris cum pasquis et aliis ad regalia pertinenticus, e continua così per tutti gli altri villaggi con i castelli, ovviamente. Non solo, ma perché stanno cambiando i castelli, no? Diremmo che potremmo essere nella seconda o terza generazione dei castelli, secondo gli studi di Settia, stabilisce che il Dominus possa far lavorare i suoi rustici per l'edificazione del castello. Vi leggo. Perché questo è molto importante per il rapporto fra la signoria territoriale di Vanno e la costruzione del castello. Damus licentiam constituendi munitiones castrorum et villarum super omnes homines, in supranominati scurtibus, quindi su tutte abitantibus, ipsis quibus hominibus firmiter precipibus ut ei in iusmodi obedientes exista, quoci in hoc obedire contenseri, o comunque vallimentum eis valere posueris nos rachus firmope tenebus. Cioè, sostanzialmente la possibilità è quella di far lavorare gli uomini, tutti gli uomini, tutte le corti, non solo di quella, ma delle sue corti, per la edificazione del castello. Quindi si forma una signoria molto più ampia, anche per il bando, e lì impone anche il bando su questo, cioè. Ma ecco, sostanzialmente siamo di fronte quindi ad una signoria che viene strutturata non attraverso un acquisto, ma dall'imperatore. Quindi una origine diversa. Questa signoria, se volete, possiamo seguirla, non la seguiamo perché arriviamo al caso, perché finora ho fatto casi in cui sono presenti i rustici. Se compaiono dei milites per formare la signoria, li cacciano, no? Li liquidano e li cacciano. Adesso vediamo il caso opposto, cioè l'origine è imperiale, ma i sottoposti sono comunità di milites che si incoraggia ad arrivare perché la finalità è quella della guerra. Allora, in questo caso l'esito strutturale della signoria sarà la creazione di più signorie a livello diversificato, cioè di un'alta signoria, di una signoria intermedia e poi molto rustica. Vediamola. Il primo documento in questo senso è quello appartenente ai canonici di Santa Maria di innovare il rapporto alla corte di Mosezzo, di cui ha già ampiamente parlato il Branco di Busdraghi, e io rimando a ciò che al libro del Branco di Busdraghi è passato, perché è tardi. La seconda documentazione su cui vorrei soffermarmi, che è quella che mi interessa di più in questo momento, quella di cui si è occupato anche Castelnuovo, so, con delle esercitazioni all'Università di Torino, è quella di Andrade. E ormai poi possiamo anche discutere su questo interessantissimo caso di Andrade. Allora, il primo documento che ci faccia capire che cosa sta avvenendo è una carta del 1093. Ci sono tre o quattro altri documenti, ma non andiamo oltre la situazione del possesso del castello ad opera dei conti, quindi di Sarno. 1093. Tre conti della stessa della famiglia, sono la famiglia dei Pombi, Guido, Alberto e Tizzone, creano le condizioni per attrarre nella fortezza di Viandrate un elevato numero di milites, capaci di formare il nervo della potenza del casato in guerra e di costituire un centro responsabile e dinamico per la crescita dell'insediamento. Con questi milites i conti stabiliscono precisi e reciproci impegni. Per popolare il centro di Castellato vengono dati in beneficio ai milites dei sedimi. No, a questo punto io direi che sono i solares su. Vengono dati in beneficio dei sedimi, con l'obbligo per i milites di costruire delle case e in base al privilegio di Corrado II, i sedimi dati in beneficio diventano ereditari sia per la discendenza legittima maschile sia per la linea femminile. Qualora fosse stata costituita una casa, era assicurato al costruttore il diritto di disporre liberamente della casa, tanto da poterla alienare. Invece la terra su cui sorgevano le case non avrebbe potuto essere venduta, cioè possono vendere la solita cosa medievale, possono vendere la casa senza vendere la terra. La terra, se la si vuole vendere, bisogna chiedere il permesso ai conti. I milites, tuttavia, a Viandrate non possedevano solo beni beneficiari, erano anche proprietari, moltissimi terrieri, liberi proprietari terrieri. E pertanto i conti si impegnarono a garantire l'intangibilità e la difesa delle loro terre, sia prediali sia beneficiali. Qui c'è il discorso dei 15 giorni dopo che se ne sono andati. Al contrario, invece, i milites si impegnano a difendere i conti, cioè gli devono dare 15 giorni, no? Si impegnano a difendere i conti anche 15 giorni dopo che hanno detto noi ce ne andiamo. No? Quindi è una sorta di patteggiamento. Però i conti si trattengono i tre delitti più gravi: l'omicidio, lo spergiuro, l'adulterio e poi il furto, il tradimento e l'assalto del castello, nonché il duello giudiziario. Ogni altra causa, stabiliscono i conti, sarà giudicata da 12 consoli eletti dai milites senza che i conti intervengano per imporre il bando. Quindi tutto il bando minore viene esercitato dai consoli dei milites. Infine, entro la cerchia delle mura castellane, questo è molto bello, non sarebbe stato possibile ai membri della famiglia comitale togliere a qualsiasi uomo i suoi beni o privarlo della sua libertà, quindi attaccarlo all'interno, a meno che non avesse commesso delitto di tradimento oppure per esplicita volontà della maggioranza dei 12 posti. Questo è molto bello perché è un habeas corpus molto antico. Molto. Al contrario, i consoli chiedono ai milites di giurare che avrebbero aiutato militarmente la famiglia a mantenere i beni, e questo è il solito giuramento, beni sia privati che beneficiali, in Viandrate e dovunque, salva però la fedeltà dovuta ad altri domini. Quindi con ogni proprietà erano milites di più domini, e già che mettono in salva fidelitate anteriorum dominorum nostrorum, c'era un giuramento ligio, probabilmente con precedenti domini. Ecco, fu richiesto un giuramento di reciproca solidarietà fra i milites a salvaguardia dei beni. Ecco, a definire compiutamente questo nuovo tipo di signoria, che è a due strati, C'è una carta di patteggiamento tra i conti che con un atto separato si mettono d'accordo con i rustici. Per i rustici sarebbero stati validi gli impegni assunti con i milites in rapporto all'amministrazione della giustizia. Circa le prestazioni rusticane, quindi per l'amministrazione della giustizia, i rustici sono sottoposti ai milites, tranne che per i delitti maggiori che rispondono ovviamente ai conti. Mentre per le prestazioni rusticane ai conti interessa solo che i coltivatori della terra forniscano tre servizi con i carri per l'esercito. Quindi sostanzialmente vogliono carrigia in funzione della struttura dell'esercito e non chiedono altri aggravi. Fissano però per sempre, e questo sarà mantenuto, il prezzo del canone annuo delle terre date in beneficio per i rustici, che è per tutti 16 denari per ogni sestadio di terra. Non solo, ma anche ai rustici viene stabilito che gli edifici che loro costruiscono sulla terra ricevuta possono essere venduti, ma solo ai vicini, che non possono alienare la terra. Queste regole, pur lasciando l'alta signoria ai conti, permettevano ai milites una autogestione del castello, nel quale i rustici erano in una posizione più defilata, anche se non passiva. Il gabotto ha visto in questo la prova dell'origine signorile, salvo perché non regge questa posizione del comune. Al contrario, il Pavinsky e poi più tardi il Cognasso hanno visto il Pavinsky un'evoluzione delle relazioni vassallate con beneficiari italiane, questo può anche essere accettato dopo la Costituzione. Mentre il Cognasso ha visto una carta libertatis, no? In fondo è una carta di franchigia in confronto al castello. Forse è una cosa più complessa, direi che è una carta che serve per creare un tipo di società nuovo, no? C'è un esempio poi di Piacenza, della Badessa di Piacenza, cioè questi tipi di società nuovi in cui l'esercizio della giustizia si differenzi e si creino gli strati di signoria. Infatti la famiglia Comitale nel 1093 è in un momento un po' grave per se stessa, stanno per spaccarsi in tre grandi rami e cercano in qualche modo di legarsi a questo forte, potente gruppo di milites in funzione del servizio armato dei milites. La carta venne sicuramente applicata sul territorio fino al 1167 perché alla morte di Guido, di Guido il Grande, di Piandrate, che è il conte che segue l'imperatore, che è parente con il marchese di Monferrato e quindi uomo di corte di Federico I. Con Federico I la situazione è di vantaggio per i conti, perché nel 1152 Guido di Piandrate si reca in Germania, alla corte, tralascio il preliminare di Corrado III che non mi interessa, e nel 1152 si reca alla corte e qui vi è la concessione di un importantissimo privilegio con cui, di cui si è ampiamente occupato il tabacco, con cui Federico garantisce a Guido le fortezze e i beni affinché ne godesse, secondo lo ius proprietarius, quando si trattasse di cose di sua proprietà, e secondo i mos beneficiarius, quando si trattasse di benefici. Non si può dunque parlare di un'investitura di feudi, ma al contrario, giustamente il tabacco sottolinea questo, di una concessione dell'attuizio su un intero patrimonio familiare formato da lodi e da benefici, entro i quali si mescolavano proprietà immobiliari, diritti di giurisdizione e ragioni fiscali. I possessi beneficiari tendevano quindi a confondersi e ad essere assimilati a quelli allodiali e prediali. La formula di distinzione quelli allodiali e quelli beneficiari potrebbe anche essere introdotta giustamente, secondo il tabacco, per cautelare i Piandrate sul possesso di beni che in qualche modo avevano dei rapporti feudali che se non si potevano più dimostrare. Ecco, fin qui le cose quindi funzionano perfettamente, questo doppio strato di signoria. Muore il conte. Il conte muore, sono pressoché certissimo, l'8 marzo 1167, anche se il 12 nella carta con cui i figli riconfermano ai milites gli accordi precedenti, è citato ancora come vivo, ma sappiamo che è morto l'8 marzo dai necrologi eusebiani, perché ha insegnato nei necrologi di Sant'Eusebio di Vercelli, morto l'8 marzo. E quindi il 12 marzo i figli ribatteggiano la carta del 1063-1166. Quali sono le varianti? Le varianti sono solo due. La prima è che accanto al termine beneficio, che compare tutte le volte nella carta del 1093, compare la specificazione, questo è importantissimo, id est ferre. Id est ferre. E quindi questo è molto interessante, vuol dire che hanno creato proprio un raccordo totale fra le due parole, c'era la necessità di farlo. I conti si riservano il vanno, però viene richiesto di non superare il tetto dei 60 soldi, mentre per lo spergiur, per ogni delitto maggiore, per lo spergiur e per il furto si sarebbe messi d'accordo secondo l'entità, soprattutto il furto, secondo l'entità della cosa rubata. Ecco, rispetto alla carta del 1093 vi è una cosa nuovissima che è il riferimento al fodro. I conti per nessuna ragione devono esigere il fodro sul luogo, ad esclusione del fodro regale, che viene fissato, di 36 lire, e si stabilisce cos'è il fodro regale. Quando imperato con suo esercito, coronandi causa, dell'Ecclesia Rome, pacificandi, Roman die, solo in quel caso. Nel marzo 1168 tutta questa creazione viene rasa al suolo, tutto viene distrutto. I due comuni, Novara e Vercelli, rado completamente a suo di andare. I milites vengono spartiti fra le due città con violenza, obbligandoli a comprare le case all'interno della città. Sembrerebbe una cosa finita. E questo è interessante, che i milites hanno una tremenda coscienza di quella loro storia. Nel 1216, cioè esattamente 60 anni dopo, i discendenti di quei milites si ritrovano in un prato accanto ai ruderi del vecchio castello. Le due città hanno inserito negli statuti che il podestà giurano tutti gli anni detenendo destrutto blanderato, e li fa giurare tutti, è nella lista dei giuramenti iniziali primordiali degli statuti cittadini. Bene, nel 1216 si trovano accanto ai ruderi del vecchio castello et societatem fecerunt inter se. Giurano di difendere reciprocamente fra di loro, di eleggere dei rettori a cui avrebbero affidato la guida della societas e di mantenere validi patti per 10 anni. Ad ogni inizio di estate si avrebbero rinnovato i loro rappresentanti o rettores. A questo punto si ricostituiva una comunità che è la base essenziale per la rinascita delle strutture materiali. Nel 1227 finalmente compaiono i conti che circolavano, nel 1227 ricompaiono, salto la cosa molto più complessa, salto molto, e ottengono, soprattutto Guido di Rainerio, ottiene da Federico II la possibilità di riedificare il castello. La riedificazione del castello fa sì che si crei una nuova necessità di ridiscutere gli antichi patti del 1166, anche perché oramai questi milites si sono dati una forma comunale e vengono ridiscussi gli antichi. Der ganz kurz die wichtigsten Punkte auf Deutsch noch einmal wiederholen. Dadurch, dass ja sehr viele Urkundenrechte in lateinischer Sprache jetzt hier worden sind, konnte man, glaube ich, den Gedanken gut folgen, beziehungsweise den wichtigsten Punkten, um die es hier geht. Auch hier wieder kann ich natürlich die Einzelanalysen von Urkunden und Bewegungen nicht wiederholen. Anwender hat also die Methode gewählt, ein Territorium von 10 Kilometern im Quadrat ganz intensiv zu untersuchen. Und das ist vor allem deshalb möglich, weil für etwa anderthalb Jahrhunderte für dieses kleine Gebiet etwa 1000 Urkunden zur Verfügung stehen. Ich glaube, das deutet schon den riesigen Unterschied an, gestern zwischen Herrn Irsicher und Frau Vollrath in der Diskussion spielt es ja eine große Rolle, dass man für deutsche Verhältnisse da kaum Urkunden hat, die das in das Innere der Verhältnisse Einblick gestatten. Wie etwa bei ausführlicheren Privilegien oder bei Prozessurkunden. Er versucht also anhand dieses beschränkten Gebietes eine genauere Analyse der Frage, was heißt territoriale Herrschaft, und er meint, dass das Schlüsselwort Bannherrschaft, also Zwangsgewalt, Gerichtsbarkeit, ist innerhalb dieses kleinen territorialen Gebietes gibt es aber drei verschiedene Modelle, die dann entwickelt werden. Die Unterschiede, das gilt noch allgemein und das kommt in der Zusammenfassung wieder, rühren vor allen Dingen daraus, ob nur bäuerliche Bevölkerung, Rustici, oder ritterliche lebende Milites mit in die Herrschaft eingezogen werden. Und das hängt davon ab, welche wirtschaftlichen Zwecke oder militärische Zwecke von den betreffenden Herren verfolgt werden. Das Territorium ist also im Gebiet von Novara und deshalb spielt der Bischof von Novara das Kapitel und die örtlichen Herren bei der Herrschaftsbildung eine Rolle. Ich will die einzelnen Beispiele nicht zu genau verfolgen. Sie haben auch mitbekommen, immer um Urkunden handelt, die teils noch im 10. Jahrhundert angehörten, teils im 11. Jahrhundert und dann in der Zeit durch Barbarossas oder auch die vorher Bestätigungen erfolgen, die aber eine gewisse Auswahl aus diesen Urkunden treffen und damit auch zeigen, welche Rechte in diesem Moment stark sind oder welche man lieber verzichtet. Aus dem Schlusswort, nämlich aus dem ersten Beispiel heraus, die Tatsache, dass hier der Bischof einmal die Gerichtsbarkeit Honorat Strictum gekauft hatte vom Grafen und dieser Kauf um Geld später weggelassen wird, weil das als diskriminierend empfunden wird, weil nämlich diese Rechte in der späteren Zeit dann man sich wieder bewusst ist, dass sie eigentlich vom König herzuleiten sind und deshalb ein bloßer Verkauf eher als eine Schwächung der Rechtsstellung erscheint. Ja. Ich habe Schwierigkeiten aus diesem reichen Material jetzt einzelne Stationen hier in Kürze zu entwickeln. Bei dem ersten Beispiel war es jedenfalls so, dass im 12. Jahrhundert dann die Milites, die hier eingedrungen waren, in dieses Gebiet hineingezogen waren, wieder ausgekauft wurden, ihr Benefizium an den Bischof zurückgaben, um hier eine mehr rustikale ländliche Herrschaft zu schaffen. Dabei kommen dann auch die CBs von Novara herein, also die kommunale Entwicklung, die wir schon im Beispiel von Toskana ja gesehen haben, in dem Bürger von Novara sich örtliche Herrschaftsrechte verschafft haben und sich jetzt nicht der Jurisdiktion der Kanoniker von Novara unterwerfen wollen und hier in einem Urteil des Bischofs, immer wieder wird der Bischof in der Gerichtsbarkeit hineingezogen, vor allem wenn es sich um Kanoniker handelt, einmal auch, weil das Kanoniker sich nicht der weltlichen Gerichtsbarkeit unterwerfen wollen, sagt hier, dass eine oberste Gerichtsbarkeit den Kanonikern zusteht, aber darunter gibt es andere Formen von Herrschaft, auch von niedriger Herrschaft. Das zweite Beispiel ist das, wo sich dann die Kanoniker weigern, vor das überwältigte Gericht zu gehen. Und dort ist eine alte, hochadlige Familie, eine alte adlige Familie, die ein Viertel dieser Herrschaftsrechte besitzt, und die Kanoniker und diese Familie blockieren sich bei der Herrschaftsbildung. Das dritte Beispiel dort ist diese hochadlige Familie, die mit den Königen Italiens aus dem 10. Jahrhundert in verwandtschaftlicher Verbindung steht und die deshalb hier auch immer wieder Privilegien der späteren deutschen Könige Justus des Ersten und Konrads des Zweiten erhält, wo also dann die hohen Rechte über den richtigen Zweikampf, den Eid, wie bei einem Pfalzgrafen, bestätigt werden mit anderen niedrigeren Rechten und Regalien. Und hier wird das dann zusammengefasst zur Zeit Friedrichs des Ersten, 1155, wobei aber die Rechte in ganz neuer Weise definiert werden. Eine Signoria nuova struttura al fatta dal imperatore. Also, es ist interessant, dass eben da das Königtum eingreift und gewachsene Dinge sich auf Wunsch der Betreffenden in eine neue verfassungswesentliche Form bringt. Nachher hat Herr Kollege Andenna den guten Fall des Castells Biandrate noch einmal analysiert, der in der Historiografie immer eine große Rolle gespielt hat. Er begann mit einem Dokument von 1093, wo drei Grafen derselben Familie Maßnahmen zur Vermehrung der Milites, zur Stärkung der militärischen Kraft treffen. Also hier ist das Castellum, steht auch im Castellamento, von besonderer Bedeutung. Und dass dort Sachen zu lehen vergibt. Die Milites hatten aber neben dem Lehnseigentum eigenes Eigentum. Die Grafen urteilen über die schweren Verbrechen. Die Milites bilden dann eine wählen Konsuln und bekommen eine niedere Gerichtsbarkeit. Bei dieser Urkunde wird diskutiert, ob es hier sich handelt um ein frühes Freiheitsprivileg, eine Art Habeas Corpus Akte oder eine Entwicklung hier der örtlichen Herrschaft. Die Rustici, die Bauern also, werden ebenfalls erwähnt, sie dürfen Land innerhalb der Genossenschaft verkaufen. Mit Guido von Biandrate, einem Volksmann Friedrichs I., kommt hier wieder eine neue Situation, ein wichtiges Privileg von 1142, in dem die Rechte für das ganze Familiengut der Familie Biandrate zusammengefasst werden, an Odien und in Lehen, eine neue Form von Signoria. Trier, Medizin ist Folgen, also eine neue Entwicklung des Lehnrechts, zeigt sich hier. Der lehnrechtliche Aspekt ist eben für den ersten sehr wichtig. Dann aber werden das Castell di Andrate, das Mito von Guido, von den Städten Novara und Vercelli zerstört, die Militärs aufgelöst und in die beiden Städte verteilt. Das Interessante ist aber, dass diese Militärs dann, wenn ich recht sehe, im Jahr 1216, sich auf dem Kastell, auf den Resten des Kastells treffen, einen Pakt schließen und eine Verfassung, in der es einerseits Domini, Grafen gibt, dann die Militärs, die sich zur Kommune formen und schließlich die Bauern eine Rechtsstellung bekommen. Also nach der Zerstörung des Kastells, nach der Auseinandersiedlung der Militärs, wird hier wieder eine kommunale Form mit Wahl von Konsuln der Militärs gegründet, eine dreistufige Herrschaftsordnung, also wenn man bis zu den Justizi hinuntergeht, die aber selber keine eigene Kommune bilden. Ja, ich glaube, ich schließe es hiermit ab. Ich habe versucht, die Punkte der Zusammenfassung schon innerhalb der Analyse kurz zu betonen. Ja, nein. Adesso possiamo cominciare la discussione per circa mezz'ora di tempo prima della sospensione. Prego, chi chiede la parola? Chi ha chiesto la parola? Pensado mucho entre otras cosas el ejemplo de los límites y las confesiones que precisamente ha hecho una alusión a la similitud que puede tener con el solar. Yo me ha dado la impresión que no es una similitud grandísima, casi, porque además hay que tener en cuenta que en las confesiones que yo hablaba, claro, yo me referí sobre todo al proceso con el que unos determinados libres pueden convertirse, van a convertir después en dependientes, pero era necesario tener en cuenta que muchos de esos ejemplos probablemente son de límites. Por lo tanto, es más, y esto lo desarrollaré en el texto escrito. Muchas confesiones aparece el término pro bono servicio en esas confesiones de solares. Yo creo que es prácticamente lo mismo. Es más, también ahora vistas otras relaciones, es momento de introducir en el texto que hay algún caso de hombres de factoría que son calificados como boninomis. Bastante difícil de definir, volvemos al tema de los grupos intermedios. En definitiva, otra cosa es que en la evolución entra en independencia en el siglo XII. Y esto es más bien más que una pregunta, era una observación, un comentario. También en relación al problema de la casa de la propiedad de la casa, de la casa del solar, de la casa en la tierra. Esto me recuerda que en tiempos anteriores, pero en este contexto, en el Fuero de León 2017, hay 9.017, hay una diferenciación entre propietario de la casa, propietario del solar. Esto algunos historiadores del derecho, yo no soy, no soy historiador del derecho, lo han interpretado en la línea de una parecer de una concepción del derecho germánico, sí, un poco este derecho germánico, grito germánico, de la casa como bien mueble, bien mueble, bien móvil. Y que se, precisamente al ser la casa bien mueble, se produce la diferencia con el inmueble, con la tierra. Facevano parte di un complesso economico più distante, la corte di Cavalieri, sì, esatto. Sì, non è Cavalieri, comunque è Cavallo, ma non è Cavallo Reggio. Tutto questo in Lombardia, differente dalla Toscana, non sempre, ma in molti casi, a partire dal principio del XI secolo, gli atti di alienazione riguardanti i corsi contengono appunto riferimento al sempre Teleonio, distrito del distrito Teleonio. Più tardi si aggiunge commentazione, più là. Tanto che, però, non è affatto una generale questa frase, sono molte le corti che sono succedute senza questa particolare aggiunta. Che cosa secondo lei noi dobbiamo raffigurarci in questo distretto? Ed è soprattutto presumibile, data anche la relativa eccezionalità di cui questa visione si presenta, che questo distretto sia regolarmente di origine regia o comunque voluto, raffigurato, interpretato dal loro attuale punto di come di tipo regio, insomma, ma non sappiamo da cosa sia. È possibile che si includa già allora la giurisdizione per i tre o quattro grandi crimini per questa giura, l'Uterio, l'Omicidio e l'altro, che mi pare sono documentati in Piemonte la prima volta dalla casa di Andrate e quasi simultaneamente per la Uterio della Navarra di Mosezzo. Per la Toscana c'è un principio del XII secolo, una carta di Villa Basilica, la Lucca, e nel Pisano nel 1121 i Longobardi di Montecchio hanno diritto di omicidio, eccetera. Montecchio in fronte a Pontedera. Ma poi passo per la sua domanda con questo contesto. I 60 soldi previsti nel 1163 dalla carta di Andrate riguardano i delitti maggiori. Questo mi sembra di estremo interesse, perché 60 soldi sono i 60 soldi che i vari capitolari carolingi prevedevano per il Banco Reggio. E tenuto conto della presumibile svalutazione della moneta, si poteva essere omicidio o a buon mercato alla fine del processo. Sì, questo sì, questo sì. Quindi è così. Sulla buon mercato sono la parola. Tanto che immagino sarà. E poi un'ultimissima domanda, però. È stupefacente la coscienza, la persistenza di una coscienza di sé che limita il culturale ad avere durante 50 anni dopo la costruzione del castello. È stata secondo lei questo sentimento, che tu anche sentimento di essere una comunità, sostenuto dal continuato possesso di sedimi o alluviali o di benefici nella zona, pur essendo stato distrutto il castello e da presumere? Grazie, un po' lungo, mi chiedo spesso. Sono about sono stato proprio colpito da questo fatto che si può organizzare creare così tanti modi diversi riguardanti anche l'identità magari che abbiamo anche parlato delle famiglie ci sono sicuramente delle conoscenze tra quello penso di un villaggio in crisi che si chiama Massa Macinare in cui ci sono una serie di signori che sono liberari dell'economica delle terre, sono comunque signori. E la cronica riesce a riprendere la signoria sulle loro proprie terre da questi signori che loro perché i signori laici perdono un certo potere locale perché stanno a confinare così che con i lucreti come si sono le storie. L'interesse è che quando i canonici ripigliano i poteri signorili da questi signori laici, del potere di cacciato non si parla più, perché effettivamente i canonici si interessano molto di più degli altri di signoria che hanno a che fare con il grado, la città e tutto il resto. Ma a questo punto c'è da chiedere, si potrebbe dire nel contesto lombardo-piemontese se ci siano diversità nel peso economico delle signorie? Nel peso? Nel peso. Dell'importanza. Sì, sì. Sì. Si può anche quantificare. No. E anche vorrei chiedere se ci siano differenze per quanto riguarda l'organizzazione del tribunale signorile quando si passa da una signoria indirizzata al potere militare a un'altra signoria indirizzata all'organizzazione del governo per la città. Basta. Che altri chiedere? Oui, je voudrais peut-être poser une question un peu naïve, mais elle a tout de même fait l'objet d'un débat entre Pierre Frère et François Menand lors de sa soutenance de thèse, et vous avez évoqué à plusieurs reprises les problèmes de la juridiction, et j'ai bien compris, vient de le refaire en évoquant le district tous et les quatre cas. Évidemment, en ayant dans la tête l'exemple de la seigneurie française et de la seigneurie justicière française, une question vient à l'esprit, est-ce que cette justice n'a pas, à partir de la fin du XIe siècle, profondément changé de caractère, en ce sens que d'une justice tout à fait compositoire, même, semble-t-il, dans les quatre cas, encore que là, on n'en soit pas tout à fait sûr, est-ce qu'elle n'est pas devenue beaucoup plus répressive? Dans les campagnes françaises, avoir les quatre cas au XIe siècle, c'est présider à des duels et à des orgalies et percevoir des amendes. Tandis qu'au XIIIe siècle, on a l'impression que les campagnes se sont un petit peu plus archevêques, seigneuriaux. Et un excellent historien belge du droit et de l'institution, Koch, a parlé de l'espèce de révolution de l'an 1100 l'exercice de la justice. Alors, je voudrais simplement poser cette question. Depuis quand, en Italie, la seigneurie était capable et habituée de donner la mort? Carlo, ti dà la parola? Molto rapidamente sul fatto che tu hai insistito su alcune signorie tutte molto diciamo qualificate per la qualità dei titolari in un senso in un altro, cioè una vecchia famiglia o un capitolo di un bar, eccetera. E hai, definito un campo di indagine giustamente molto circoscritto, ecco, proprio per cogliere meglio. Mi chiedevo, non so se mi è sfuggito qualcosa, fino a che punto in un ambito più vasto, scusa se esco dal campo che tu avevi definito, si possono ritrovare forme di questo tipo e se ancora si devono ricondurre a autorità, vescovo, capitolo, grandi famiglie, oppure si può notare una disseminazione di tipi di signorie, non dico più deboli, anzi possono essere altrettanto forti, ma anche meno qualificate con le origini e autorità dei titolari. Anche gli stipendiati, i borsisti, se vogliono intervenire in quest'ultima giornata, anche a porre domande, richieste di chiarimento, anche agli altri relatori, cioè almeno oggi fare un po' più di dialogo. La pena di morte in questa signoria non si può prendere. Fanno una serie di... E chi preparazione a lezione porre dei quesiti per la discussione finale, ecco, anche perché il professor Dinovait arriva ma in ritardo, quindi stamattina abbiamo un po' di tempo, invece potrebbe citare il professor Dinovait arriva alle 14, quindi alle 15 in punto, senza quarto d'ora accademico, cominciamo la giornata pomeridiana con Villova. Quindi dopo ce ne sono. Quindi stamattina, appunto, questa è un'occasione per i borsisti di far vedere. No, non di far vedere, nessuno deve far vedere. Il problema è se avete delle domande anche rispetto ad altre relazioni, cioè, eccetera, stamattina si può essere una discussione. Sì, puoi cominciare la discussione preparatoria. Preparatoria per quella generale. Una discussione generale. Un allenamento. La parola ancora. Il professor Antonio, una nota Archetti. Archetti, sì. Ecco, dite sempre il nome perché la registrazione. Volevo chiederle se è possibile fare un piccolo regolamento come è stato fatto ieri dalla professoressa Fasola. Lei arriva all'inizio del XIII secolo. Il rapporto poi delle signorie, mi riferisco soprattutto all'area bresciana, signoria ecclesiastica, con il comune, magari in alcune zone tipo montagne, eccetera, dove c'è una persistenza di quelle realtà che probabilmente sono molto più antiche. Ecco, nel quadro più generale dell'area lombarda e del quadro piemontese, che non sia possibile, se lei ci dà un chiarimento ulteriore rispetto all'evoluzione di questo processo con signorina. Grazie. Piazzo, sarebbe bene magari farà rispondere subito, perché finora Andrea poi ha le domande, dopo si accumulano troppo e... Sì, non perché per non gravare troppo su Andrea, poi affinché si capisca meglio a chi è rivolta la risposta. Prego, rispondere. Sì, grazie per tutti coloro che sono intervenuti. E al professore Stimbal, però... Allora, al professor Branco di Busdraghi, che in questo caso mi ha sostanzialmente fatto delle domande di una difficoltà che per la documentazione che possiedo, io sarei felice di dirle cosa significa districtus nel 1013 o nel 1998, solo che perché avrei trovato un processo di quell'epoca in cui avviene una specificazione di questo tipo. E al contrario, la documentazione che possediamo è semplicemente una documentazione in cui di carte private, per cui l'onore districtus, cioè un diritto di giurisdizione, finisce per essere trattato come se fosse un arresto, un bene materiale. E allora lì viene registrato perché lo considerano un interesse. Ma che cosa ci sia dentro questa parola? Cioè, se noi volessimo aprire questo file, non siamo in grado di sapere, cioè crediamo molto misterioso, per la semplice ragione che non ho elementi che possono illuminarlo. E l'unica cosa che le posso dire è che può anche essere venduto separatamente dal possesso degli immobili. Questa è l'unica cosa che sono in grado di dire, ed è la prima volta che lo si dice, almeno così, da quanto ne so io. Poi i giuristi non li ho frequentati tutti, e quindi lo so. In quel caso, nel caso dove è conosciuto, è la prima volta che lo si dice e può essere venduto separatamente. Non solo, un secondo elemento è che nella mente del conte, mi sembra di capire dalla formula, che lui glielo cede togliendolo, estrapolandolo dai redditi di una conte. Di un'altra cosa. Sì, di un'altra conte molto più lontana. Quindi doveva far parte, cioè una certa corte doveva avere una serie di rendite in cui tra le varie rendite era compresa anche questa. Per cui viene estrapolato. Questo è tutto quello che so dire. Poi che cosa esercitasse con il districtus, non lo so, quando lo trovo sarò contento. Sarò contento. La seconda cosa. Posso usurpare il diritto di intervenire. Questo estrapolare l'honor e il districtus da un'altra corte, anche abbastanza lontana per il sistema di legge, e applicarli a un'altra corte mi sembra abbastanza strano, perché o il conte ha l'honor e il districtus su tutto il comitatus e allora può applicarlo ad ogni ruolo, senza bisogno di trasferire questi diritti da un luogo all'altro, o non capisco come che senso abbia di dividere i diritti della corte di Cavalloregi, conservare i diritti di carattere patrimoniale, fiscale, eccetera, e invece separare i diritti dell'onore e del districtus e trasferirli a un'altra corte. Io questo non lo capisco. È un'operazione economica, cioè lei non deve, da quanto io sono riuscito a capire, spaccandomi la testa per i documenti, è un'operazione economica, cioè all'interno di questa corte di Cavalleri Regis c'erano probabilmente più re. No, derivanti A dai prodotti dell'agricoltura, B dai panni che potevano essere raccolti sulla corte di Cavallo Regio e probabilmente su molte altre corti. Mi spiego? Che o sulle quali non avevano particolari proprietà terriere e quindi confluivano ad alimentare il reddito di quella corte. Per cui potrebbero benissimo essere estrapolati e ceduti se l'offerta è buona. Cioè dobbiamo anche pensare in senso economico per questa gente. E invece noi ragioniamo solo in senso giuridico o in senso militare. E questa gente ragionava anche in senso economico, perché alla fine una serie di apporti di natura economica dovevano esserci. Questo è un po' il discorso. Cioè, mi sembra di capire che alla fine del decimo secolo, inizi secolo, queste cultis posseggono come rendite una serie di elementi molto dissimili, che vanno da elementi economici a proventi di natura banale. D'altra parte, il professore tedesco che mi ha preceduto, di cui chiedo scusa di mettere il nome in questo momento, ha detto che le rendite derivanti dall'agricoltura e le rendite derivanti dai banni erano pari o superiori a quelle dei banni, che vuol dire che anche in Germania questo avveniva. Può darsi che il bando avvenisse sullo stesso territorio della cultis, ma può anche darsi che ci fossero altre rendite di altri danni. Mi spiego. Quindi non è detto che per forza ci debba essere solo il bando su quel territorio. Potrebbe esserci benissimo il bando anche su altri territori. Basta che negli altri territori non ci siano redditi tali materiali da costituire una cosa. Ma non capisco perché. Ne parliamo dopo. Se per rinunciare al bando e alla rendita di danni su una corte per affermarli su un'altra. Ma no, non è lui che li afferma su un'altra, gli dice a un vescovo perché il vescovo lo paga. Mi sono spiegato, è come se lui vendesse un qualcosa che offre reddito al vescovo, solo quello. E allora sarebbe il vescovo che fa la che fa l'affare, certo, non fa l'affare. Non la fa il trasferimento. Sì, certo. Cioè che anche applica dove vuole. Esattamente. Ma perché? Per dare questi diritti al vescovo, se li deve togliere lui il conte da una determinata corte? Perché erano legati a quella corte, quindi ha dovuto togliere il al vescovo interessava che sulla corte di Lugano ci fossero anche i diritti. E il conte li disponeva e gli ha chiesto non so se poi, perché poi dovrei raccontare tutta la questione dei rapporti tra questo vescovo e il conte, che sono rapporti complicatissimi che non qui non interessano, si vede che lo ha costretto a cedere. Perché lei sa che ci sono delle vendite che sono spontanee, ci sono delle vendite forzate. Questa secondo me è una vendita forzata. Ma questo può incidere sul giudizio che si può dare del diritto di distrittus a questo momento. Che il diritto di distrittus intanto è ridotto alle ammende giudiziarie. Cioè, che si considera più dal carattere della rendita economica che dal carattere dell'esercizio del potere giurisdizionale. E poi il diritto di distrittus si è tanto legato al territorio su cui lo si esercita, che non è più soltanto una parte delle facoltà, dei poteri comitari, i quali non possono essere limitati, ma se non dal territorio del comitato. Quindi noi ho l'impressione che questa sia una spia da approfondire, forse i documenti non lo permettono, ma insomma rimane questa pulce d'orecchio, questo dubbio di questa situazione estremamente strana, non la fa che non ti spieghi, non ti spiegare perché l'ha venduto, chi l'ha costretto, ma la natura di questo follower e distrettus acquista un carattere particolare, insospettabile fino a volevo finire solo con Branco lì, che mi ha chiesto bene i 60 soldi, e qui è la prima volta che viene, cioè la seconda volta, perché prima c'è il documento di possesso in assoluto, no? Del 91, sì. Questo del 93. Ecco, qui i 60 soldi sono sui delitti maggiori, mentre per i delitti minori però i 60 soldi in questo caso non sono nella carta del 93, ma sono nella seconda carta. La carta del 93 è una specifica entità. Qui si mette una cifra globale per i diritti maggiori. In un documento molto più interessante di circa 2-3 anni prima, è un placito tenuto alla corte di Federico I a Monza, nella corte regia di Monza. C'è una lite fra il Castello e la Bazzia di Beatrice d'Oro, e lì c'è addirittura la definizione del prezzo dei singoli delitti. Mi sembra che per l'omicidio non si può superare, mi sembra, 30 soldi, e quindi è ancora più basso. Mi sono spiegato? Il furto era solo 10 soldi, questo lo ricordo bene. Quindi praticamente c'è un tariffario. No, sembrerebbe ancora l'antica applicazione del quindicesimo Longobardo, per cui tutta una serie di delitti, cioè è possibile pagare il delitto commesso e quindi arrivare a una composizione. Mi sono spiegato. E non è di grande peso economico, perché attorno al 1162-1164 10 soldi per un furto sono pressoché nulla. Il diritto longobardo, diciamo meglio, per diritto dell'editto, coesiste da Romagna in poi il banno regio e la composizio, quindi si andava, ma anche con la composizio si andava fino a 300 soldi, che non sono tantissimi, sempre tenuto conto dalla valutazione, dai limiti della valutazione della moneta, del fatto che il denaro d'argento non era il soldo d'oro. Sì, poi qui i denari sono nigri, sono i milanesi nigri poi a un certo punto. Ancora c'è molto, quindi sono svalutati, cioè argento nero, quindi più c'è un trattato di Tartavia e Milano, mi pare del ciclo del XII secolo, l'intesa che i delitti, insomma, gli omicidi saranno puniti per un ammontare di 7 lire e mezzo massimo, che sono i famosi 150 che il delitto di lotta che la Liga prende, come un esercito minimo, una sorta di titolo globale per dire come un esercito minimo per esercitare. È tutto interessante queste sopravvivenze e queste considerazioni globali. La ringrazio per questa precisazione. Per la coscienza dei milites direi che è più giusto, i milites hanno continuato a tenere, se non si vive, almeno proprietà nella zona e quindi questo ha facilitato. Anche se però alcuni si sentono legati alla città, perché nei patti molti chiedono di non servire poi militarmente contro la città dove loro sono ormai divenuti civiles, come dire, che era appunto a casa. Grazie. Per quanto riguarda Vicam, lo ringrazio per così, l'attenzione che ha voluto dare all'aspetto delle doppie finalità e quindi anche della finalità economica. Non è facile quantificare il peso economico, anche se tutta una serie di documenti, soprattutto della fine del XII secolo, ma non datati come tutti questi documenti, offrono una serie di redditi provenienti dai beni che costituiscono la massa dei beni del capitolo, che poi verrà divisa tra i singoli canonici. E quindi non è facile rimettere insieme le parti, perché qui ti trovi in una situazione di un versamento unico che poi viene suddiviso a seconda dei vari canonici, cioè non c'è una messa comune, avviene una suddivisione, perché ciascuno possiede dei pezzettini, mi sono spiegato, cioè uno ha il diritto sul mulino di Lumellonio insieme ad altri 3 o 4 che fanno un totale di Y, che non c'entrano però con Lumellonio, sono magari in altre località. E quindi non è facile accorpare per stabilire quanto è il gettito. Dalla documentazione completamente inedita del capitolo della seconda metà del 200 forse è possibile arrivare, però solo ed esclusivamente per la seconda metà del 200 e quindi non per questo momento. Se cambia l'organizzazione della giustizia nel passaggio da militare al passaggio della produzione economica in funzione probabilmente della città, del grano, eccetera. Non ho esempi di passaggio da militare a situazione economica con diversi modalità di amministrazione della giustizia, quindi non te lo so dire, ti chiedo scusa, ma non ho situazioni del genere. Anche la lettura del libro di Menard sulla Lombardia, che hai letto anche tu, non fornisce esempi, quindi non sono in grado di rispondere. Per quanto riguarda l'opposto, cioè il passaggio dalla produzione al militare, non ho anche qui esempi, perché l'esempio di Viandrate, che sarebbe quello che poi diventa militare, per la situazione precedente ha pochissime, ha solo 3 o 4 carte in rapporto ai conti, all'organizzazione dei conti, quindi non, ma della famiglia, quindi non sono in grado di dire. Il professor Battelli mi ha posto una domanda estremamente interessante, su cui in parte abbiamo anche discusso in precedenza, cioè sì, è vero, sembrerebbe esserci tra la fine dell'XI secolo e l'inizio del XII secolo un passaggio verso forme un po' più accentuate di esercizio della giustizia, cioè di una giustizia più punitiva. Però nel corso del XII secolo direi che gli esempi che noi abbiamo non sono mai esempi sangue, quindi di spargimento di sangue. Le posso però citare altre situazioni. Una la citava Livia Fasola sull'accertamento, no, di un personaggio della signoria di Villantea. Io posso dire che ci sono delle minacce da parte dei domini nei confronti dei rustici. C'è una minaccia sempre per Villanterio qualora i rustici si rifiutino di armarsi contro l'esercito comunale, da parte della domina, la quale dice: vi farò eruere oculos, no? No, vi farò eruere oculos, ma poi non tolgono gli occhi ma non lo so, ma si erano difesi però, si erano difesi da te. E altri esempi che portino all'impiccagione o che portino a spargimento di sangue non ne ho, cioè ho tutta una serie di processi per i maiali, furto di maiali, altre cose, ma finiscono con compositiones e non con veri e propri celebrazioni iniziali con il sangue. Ci sono nel 300 però, cioè se noi passiamo al 13° secolo, allora sì, allora sì. Allora ci sono esempi di impiccagione, ci sono esempi di fustigazioni, ci sono esempi molto pesanti. E direi che l'accentuazione forse va spostata più sul crinale fra XII e XIII secolo e non l'altro. D'altra parte anche Benan nel suo libro dice che insomma queste discussioni fra villani erano in larga misura discussioni verbali. No, l'esempio famoso è quello della discussione fra il Gastaldo di Monte Orsino e i personaggi che sono andati a tagliare la legna nel bosco. C'è una violentissima discussione, il Gastaldo non vuole, vuole fargli lasciare giù la legna, l'altro non vuole, arrivano a parolacce e compare per la prima volta una celebre parolaccia, Filium animae meretricis. E allora questa viene riferita, nel processo come uno degli elementi fondamentali perché l'altro lo ha insultato davvero. Ecco, questo Menan lo citava nel suo libro, cioè, appunto nel testimoniale di Monte Orsino, però anche lì non si va oltre questa situazione. Sì, la mia impressione è che quando lei dice che all'interno del villaggio si deve essere face to face, cioè in una situazione di rapporti umani molto solidi, questo è vero. È certamente vero. E il problema nasce quando i signori esterni, soprattutto nel XII secolo, in conflitto fra loro, mettono i rustici a conflitto fra loro, mettendo il rustico di un dominus in contrapposizione al rustico di un altro. Allora è finita. Allora si arriva alla situazione di violenza effettiva. Ma nel villaggio la mia impressione, l'impressione dei documenti lombardi che si è letto, è quella di un vivere in cui si patteggia, insomma, no? Ci sia molta più tolleranza nel villaggio di quanta, anche qui tra rustici e domini e semi è un dominus solo, che non nel caso invece del conflitto fra domini. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Oh, per quanto riguarda Tipolini, signori e deboli, beh sì, signorie, devo dire, sì, ce ne sono, cioè certamente, cioè, posso dire una cosa, che i grandi enti, no, questi qualificati possessori mirano alla signoria, chiamiamola forte, no? Anche se questi due linguaggi sanno di vattimo e la pace è l'anima sua, no, pardon, è molto vivo. Allora, no, diciamo che usiamo questa mattina e sto. Allora, c'è una signoria forte qualificata. Ti faccio un esempio, non da me, lo prendo a Brescia stavolta, ed è l'esempio di Santa Giulia di Brescia, no? Questa sterminata massa di documenti inediti su cui in larga misura Benan ha fondato poi il suo volume. Allora, la badessa di Santa Giulia nel XII secolo possiede una località, e poi è terminato subito dopo per l'inizio del XIII. Possiede una località, questa località è Nuvolera, che è a metà strada fra Brescia e Salò per andare sul lago di Garda. Qui c'è la pieve, lei ha la signoria sulla pieve con concessione di onore di stirpe antichissima da questo monastero imperiale, quindi ce l'ha da antichissima data. Però nell'XI secolo è avvenuto un fatto strano, cioè che alcuni arimanni, un gruppo di arimanni, di cui parlava poi, cioè di cui aveva fatto poi accenno Castagnetti ieri, un gruppo di arimanni era stato tolto dalla signoria della badessa per violenza ed attribuito a un vescovo. E la badessa continuava a protestare che non era giusto che fosse avvenuto questo. il vescovo lo aveva infeudato questi arimani, cioè il diritto ad esigere le tasse da quegli arimani, tasse e servizi da quel gruppo di arimani, a suoi vassalli capitani. E il pasticcio avviene al tempo del Barbarossa, quando bisogna pagare il fodero regio, perché il Barbarossa comincia a venire troppo in Italia e ogni due o tre anni bisogna pagare il fodero regio. Allora il problema è, gli arimani a chi lo pagano il fodero regio? Lo pagano alla badessa, lo pagano ai vecchi domini, cioè a quelli usurpati che a nome del vescovo li tengono. Discussione tremenda, gara, chi arriva primo? No? Una volta arrivano primi i vassalli del vescovo e prendono gli arimani, cioè, siete nostri uomini, dovete pagare il fodero, e quelli pagano. Seconda volta arrivano prima gli uomini della badessa e a quel punto pagano alla badessa. Terza volta gli arimani dicono, adesso basta, ci dite a chi paghiamo. No, perché cioè, noi abbiamo qui il denaro da pagare e adesso ci dite a chi dei due, perché poi quando arrivavano gli arimani erano puniti in qualche modo. Allora ci dite a chi paghiamo. E a quel punto arriva il processo, mi spiego? E arriva il processo, gli arimani vengono riconosciuti dei vassalli del vescovo. E quindi la badessa perde il controllo di un gruppo di persone. A quel punto la badessa perde la possibilità di controllare tutti su quel territorio. E allora, nel momento in cui ha da realizzare un affare economico per pagare la costruzione del rifacimento di Santa Giulia, siamo nel 1180, Santa Giulia viene ristrutturata completamente, viene creato Santa Maria in Solario, che è la cassaforte del monastero, bellissimo monumento, e allora la badessa decide di vendere la intera cultis, la vende, perché non la controlla più, e quindi la vende, e la vende a chi? Agli uomini del luogo. Ovviamente liberando quelli che non sono liberi, perché c'è un passaggio di proprietà, devono essere uomini liberi, quindi quelli che in qualche modo non erano liberi, erano di famiglia, li libera, e agli altri vende. Quindi siamo di fronte ad una alienazione, piuttosto che avere una signoria debole, quindi contrastata, no, vende. La stessa cosa avviene per Cambero. Cambero, stupenda località sul Lago Maggiore, c'è il clima più bello dell'Italia settentrionale, è un'antica cultis regio che viene donata ai canonici, sulla quale nel XII secolo interviene il conflitto fra due signorie, il monastero di Arona e i canonici di Novara. Allora lì ci sono le prime descrizioni delle violenze dei gruppi contrapposti. No, c'è proprio la narrazione di tutto ciò che avviene per riscuotere ovviamente le tasse e i servizi sulla località. C'è una serie di processi, i canonici perdono il processo, quindi loro ottengono solo i loro fanuli, gli altri hanno la signoria. A quel punto sono in situazione debole. Soluzione dei canonici, 10 anni dopo vendono ai rustici che liberano. Cioè la famiglia, vengono liberati, quindi su questa niente volevo intervenire, molte volte le liberazioni non sono in funzione delle tasse, ma sono in funzione proprio di poter cedere la proprietà alla famiglia che lì abita perché la possa comprare, anche perché questi de famiglia hanno il peculium, cioè, mi spiego, hanno i soldi e quindi sono in grado di pagare. E allora anche in quel caso viene eliminata. Quindi la tendenza di questi enti qualificati è a non tenere signorie deboli, ma a in qualche modo eliminare le signorie deboli vendendo. Questa è l'esperienza che io ho. Sì, dovrei fare però una lezione per cercare di trovare invece situazioni in cui si mantengano signorie deboli. Però è un campo estremamente interessante su cui possiamo lavorare, se ci mettiamo d'accordo, in funzione del vedere questa situazione di nuance, no? Come si diceva nella discussione ieri, dove non ci siano solo i forti, ma ci siano delle situazioni di patteggiamenti e di modalità di vita meno ben definita. Insomma. Archeti, io chiedo scusa se quindi è possibile andare oltre il XIII secolo, beh sì, sia Pesce, perché Milan ha concluso con il XII, sia dovunque, ma la documentazione è tutta inedita, per cui è tutto lavoro per voi, e soprattutto mi pregherei di andare anche oltre in archivio, perché il lavoro d'archivio, se piace, è bello. E chiudo con questo, invitandovi ad andare in archivio, perché tu non rispondo, ma vai fuori tempo massimo. Non limitando... Ah, è Stepa! Registriamo. Hai altamente privati. È Stepa. Sì. Sì, il Sovagas mi sembra che sia simile a Sedime, infatti ti avevo già proposto la domanda. È molto interessante la funzione militare, tu dici promuovo servizio, dove servizio probabilmente ha significato militare, soprattutto in Spagna. Okay. No, non c'è soltanto se scrivere sempre un libro o un diploma, invece lì è promuovo servizio e anche la forma giuridica del diploma c'è una donazione o una vendita. Perché come compensazione, come regalo, c'è un cavallo 50 o una spada, una... Sì, vabbè, se c'è la spada come regalo è ovvio che quello non è un rustico, quello è un robusto millese. No. E per quanto riguarda la separazione tra la proprietà della terra e il possesso della terra, quindi della casa che solo c'è sulla terra, direi sì, è certo che queste case sono mobili. Nel senso che se io vado in campagna, io vi posso dire cos'è un sedime, ecco, questo sono in grado di dirlo nel XII secolo. Un sedime nel XII secolo sono dei graticci intrecciati con dei quattro pali attorno, la paglia sopra e un po' di fango appostato. Perché in un esempio di Rumelonico c'è una discussione fra il proprietario, cioè un domino e un rustico di un altro domino, perché c'è il tentativo di fare il pignoramento dei buoi, c'è una discussione, non te li do sulla porta di casa, i buoi si imbizzarriscono ed escono dal muro della casa, che ovviamente il muro della casa sono graticci con dell'argilla. Mi sono spiegato? Questa è la situazione di vita di questa gente, quindi certamente la casa è una cosa mobile, se gliela bruciano il giorno dopo la non so. Ma non è però questa la spiegazione, secondo me la spiegazione è legata soprattutto se il proprietario è un ente ecclesiastico, è legato al fatto che l'ente ecclesiastico non può alienare per diritto canonico i beni. Allora, non potendo alienare i beni per diritto canonico, l'unica forma che può usare è la forma della concessione del possesso, cioè dell'uso, e obbligando l'altro a costruire sopra, mi spiego? Però allora a quel punto deve lasciare all'altro la proprietà dell'edificio, mantenendo lui però la proprietà del suolo. E questo esempio è molto bello, c'è la ricostruzione della città di Brescia durante il XII secolo, con tutti i documenti di Santa Giulia di Brescia che proprio indicano questa situazione. Lo studio che ho fatto per il convegno, di cui ti manderò poi l'estratto, e quindi puoi vedere con precisione come avviene il meccanismo di questi contratti, che sono dei simili contratti enfitetici, insomma, con queste varianti. Grazie, scusate la lunghezza. E,